giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo il maltempo, il rischio infortuni, evitate le riparazioni fai da te, dicono gli esperti, soprattutto se sui tetti. L'Aula approva l'assestamento estivo, oltre 1 miliardo, le poste su sanità, ambiente e aree produttive. Vacanze al via e fine settimana di Esodo, il piano di autostrade Alto Adriatico per muoversi in sicurezza. Meteo fine settimana dai due volti, tornano i temporali ma non violenti, poi caldo ma sotto i 30 gradi. Un'ambulanza e 3 apparecchi per anestesia partiranno presto da Trieste in direzione dell'Ucraina. Barbie campione di incassi anche a Trieste, tutti in fila al cinema, soprattutto per le proiezioni in lingua originale. 12.31 di nuovo, buongiorno dalla Razzani e Rita Micoli. In apertura ancora il maltempo e questa volta parliamo di sicurezza personale a rischio proprio a causa dei danni provocati dall'ondata di maltempo sulla regione. In troppi in questi giorni, per l'urgenza di riparare i danni a case e fabbriche, si improvvisano manutentori senza però prendere adeguate precauzioni e il rischio di infortuni gravi è dietro l'angolo. Ieri 2 infortuni, di cui uno mortale, che hanno coinvolto un 70enne che ha perso la vita a San Pietro al Natisone e un 62enne invece a Prata di Pordenone, entrambi caduti dall'altezza, uno dai 10 e uno dai 2 metri. Entrambi stavano controllando o comunque riparando i danni del maltempo. Un problema che coinvolge molte abitazioni, molti immobili, molti capannoni. C'è oggettivamente e comprensibilmente voglia subito di riparare, di andare avanti, di sistemare quello che la grandine e il vento hanno danneggiato, ma c'è anche la necessità di farlo in sicurezza. Allora sentiamo cosa da dire Antonio Verrillo, rappresentante per la sicurezza per la categoria degli edili della UIL, la FENEAL, che è in giro spesso per cantieri a effettuare sopralluoghi. Intanto, quali sono i consigli che possiamo dare a chi vuole seguire questo lavoro, a chi pensa di farlo in autonomia o a chi deve chiamare delle ditte? Il consiglio principale è di non effettuare questi lavori, perché purtroppo, come lei ha giustamente rammentato, tutto ciò è avvenuto perché queste persone, comprensibilmente, per 1000 motivi che non contesto, ma hanno fatto delle operazioni che possono essere svolte in sicurezza soltanto da imprese attrezzate in tal senso. Quindi il privato non ha la possibilità, almeno più delle volte, di avere una linea salvavita alla quale agganciarsi con delle imbragature che nel caso di caduta gli possono salvare la vita. Anche perché il semplice stesso utilizzo di imbragature IDP di terza categoria è prerogativa riservata a chi ha fatto dei corsi specifici. La causa principale di infortuni è purtroppo di morte, perché parlando di cadute dall'alto vuol dire che le persone possono cadere da altezze assolutamente notevoli, 10, 15, anche più metri, ma anche la caduta da 1,5 metri per assurdo può essere veramente pericolosa se non mortale. Ringraziamo Antonio Verrillo, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Approvata a notte fonda la manovra di assestamento estivo, la più ricca di sempre. Vale 1,80 miliardi di euro l'assestamento di bilancio estivo approvato dal Consiglio regionale con i voti della sola maggioranza. Si tratta della manovra estiva più sostanziosa della storia del Friuli Venezia Giulia, che destina alle attività produttive, al turismo 100 milioni di euro, di cui 14 per la riconversione delle aree industriali dismesse. Tolto su proposta della Giunta qualsiasi riferimento a specifici investimenti, ovvero acciaierie, nell'infrastrutturazione della Corno. L'agricoltura beneficerà di 70 milioni di fondi, di cui 52 per il fondo di rotazione e 10 milioni per il fotovoltaico. Con altri 6 milioni si installerà il fotovoltaico sugli impianti sportivi attraverso l'assessorato all'ambiente, che gestirà complessivamente 105 milioni di budget, di cui la metà per la mitigazione del rischio e dissesto idrogeologico e 1 milione per la rimozione dell'amianto. Le infrastrutture disporranno di 200 102 milioni, di cui 35 per l'attuazione del PNRR e 50 per la viabilità, quindi interventi agli interporti. Alla salute la manovra estiva destina 127 milioni, di cui 50 per la spesa corrente e 10 per ridurre le liste d'attesa attraverso le convenzioni. 145 milioni sono a disposizione dell'assessorato al patrimonio, di cui 138 per il trasferimento degli uffici della regione al Porto Vecchio e 26 milioni per la cultura, 25 per il lavoro e formazione e 30 per le autonomie locali. Una manovra che aveva come obiettivi programmazione e flessibilità, ha dichiarato l'assessore Zilli. Flessibilità nell'utilizzo della spesa, che ci ha permesso di mettere a disposizione ingenti risorse pari a oltre 50 milioni di euro per l'emergenza maltempo, e programmazione, che significa irrobustire tutte le linee strategiche di intervento dell'amministrazione regionale. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cominciano i fine settimana dei massicci spostamenti per le vacanze estive. Oggi sulle autostrade della regione il bollino è rosso, domani sarà nero. A Palmanova è stato fatto poco fa il punto sulla preparazione in vista dell'atteso incremento dei flussi. Sono quattro le giornate da bollino nero, il primo è già domani, il 29 luglio, seguiranno il 5 agosto, il 19, primo giorno di controesito, il 26 agosto, 10 quelli da bollino rosso, 30 luglio, 3, 4 e 6 agosto, 11 e 12, venerdì 18, poi il 20, il 27 e il 1 settembre. Saranno più di 2 milioni che percorreranno la rete autostradale Alta Adriatica durante i fine settimana, che impegneranno oltre 200 persone impegnate per gestire il traffico. Un traffico che dall'inizio dell'anno è cresciuto del 6,31% rispetto al periodo dell'anno precedente. Ha aumentato soprattutto il traffico dei veicoli leggeri. Sono stati 73 gli incidenti con feriti, 17 in meno rispetto a quello dello scorso anno, e 3 mortali, 6 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. In calo anche il tasso di incidentalità, che è passato da 22,3 incidenti per 100 milioni di veicoli al chilometro registrati nel 2022 ai 22 rilevati nell'anno in corso. Con riferimento a entrambe le direzioni di marcia, il dato è migliorato anche nel tratto tra San Donà e Cessalto e tra Cessalto e Sassino di Livenza. Palmanova, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche l'ANAS segnala l'intensificarsi degli spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di propria competenza. Bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di domani e domenica. In Friuli Venezia Giulia in particolare saranno interessati maggiormente i raccordi autostradali verso i valichi di confine, la strada statale 55 dell'Isonzo, che raggiunge la zona della riserva dei laghi di Doberdò e Pietrarossa, e la strada statale 14 della Venezia Giulia, che consente di raggiungere il valico confinario di Pese. È in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti domani dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. E ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 25 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. A Gorizia 26 gradi, a Udine 24, a Pordenone 25, a Tarvisio 21 gradi, a Forni di sopra 18 gradi e mezzo, sul Piancavallo 15 gradi, a Tolmezzo 21, a Sappada 17. Su Monte Zoncolane e Monte Lussari 11 gradi, a Lignano e a Grado 25 gradi, temperatura del mare nelle due località 25 gradi. Sarà un fine settimana dai due volti dal punto di vista del meteo. Le previsioni del meteorologo dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, Arturo Puccillo. Questo fine settimana sarà sostanzialmente dai due volti, prima parte di sabato ancora con cielo prevalentemente soleggiato tranne qualche nuvolamento, poi dal tardo pomeriggio di sabato si sviluppa qualche rovescio temporale in montagna che poi in serata si estende alla pianura. E poi nella notte tra sabato e domenica, stante il passaggio di un fronte da ovest, anche una diffusione dei rovesci temporali un po' a tutta quanta la regione, quindi anche verso la bassa pianura e la costa. E sulla costa poi in giornata di domenica entrerà vento da nord-est e le piogge nella prima parte di domenica potranno essere localmente anche abbondanti. Domenica poi in giornata si aprono delle schiarite, specie su pianura e costa, ma nel pomeriggio sarà possibile ancora un po' di instabilità in montagna con qualche locale rovescio. Le temperature, salite leggermente rispetto ai giorni scorsi, rimarranno però su valori diciamo gradevoli, con massime lì sotto o appena toccare i 30 gradi localmente in pianura, intorno ai 25-27 gradi per quanto riguarda le massime sempre sulla costa. I temporali potrebbero essere violenti come quelli di inizio settimana? No, non prevediamo fenomenologia intensa o estrema come quella registrata all'inizio di questa settimana, sarà però sempre possibile qualche rovescio temporale un po' più forte con piogge intense o qualche colpo di vento, insomma, però non si tratta di situazioni atmosferiche favorevoli a eventi eccezionali come quelli di inizio settimana. E la prossima settimana invece? La prossima settimana si apre l'insegna delle correnti occidentali atlantiche, quindi avremo più riprese il passaggio di fronti che saranno abbastanza modesti, ma quanto basta per suscitare l'instabilità atmosferica sulla regione, quindi saremo alle prese con diversi passaggi di rovescio temporale nel corso della settimana, alternati a fasi con tempo un po' più stabile. Le temperature saranno però tutto sommato gradevoli, anche in questo caso non saliranno particolarmente, non ci aspettiamo di avere temperature massime superiori ai 30 gradi sulla pianura. Industria e lavoro, le difficoltà di Porcia, il forte rallentamento della produzione di elettrodomestici si riflettono anche su chi produce componenti come la Nidec. L'atteso incontro con i vertici di Nidec, azienda da 239 dipendenti che in Comina a Pordenone produce motori per elettrodomestici, il 70% per Electrolux, non ha soddisfatto sindacato e lavoratori che ieri hanno indetto 3 ore e mezza di sciopero ogni turno con un'adesione pressoché totale. Non convincono il piano industriale e il prospettato taglio a una parte di retribuzione consolidata dei lavoratori. La segretaria FIOM CGL Simonetta Chiarotto. Convincono più cose. Uno, il piano industriale che non esiste, perché oggi parliamo di lavorazioni del Veneto che vengono spostate in Friuli. Non c'è una visione complessiva e completa di quale sarà la situazione progressiva di questa produzione che arriva. L'altra parte invece riguarda la variabilizzazione dello stipendio dei lavoratori, che oggi è uno stipendio consolidato per la produttività che i lavoratori nel tempo hanno dato a queste aziende. Prossimo incontro con l'azienda il 2 agosto. Nel frattempo il sindacato chiede un incontro alla Regione. Vorremmo esprimere anche noi il nostro punto di vista alla Regione, dato che anche l'azienda sta chiedendo incontri alla Regione per chiedere fondi, e la seconda cosa è l'incontro della prossima settimana in cui continueremo ad approfondire il tema e chiederemo ovviamente all'impresa, come abbiamo già chiesto, di arrivare con un piano che sia credibile. Intanto dopo la partita Midea spuntano nuove voci di interessi cinesi su Electrolux. Il coordinamento nazionale dedicato a Porcia e Forlì è fissato il 31 agosto. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Self Group di Rivignano Teor, tra le principali società in Italia nella realizzazione di stampi di termoformatura per materie plastiche, fatturato di circa 14 milioni, espande il proprio business oltreoceano. Finalizzato l'accordo per rilevare il controllo totale di Avantec, azienda leader negli Stati Uniti nella progettazione di stampi rotazionali nel settore della plastica. L'operazione, del valore totale vicino a 8 milioni di euro, è stata possibile anche grazie all'apporto di Friuli alla finanziaria della Regione, che ha contribuito per 1,5 milioni di euro. Negli ultimi 2 anni Self Group ha investito oltre 2 milioni nell'acquisto di attrezzatura per stampi di grandi dimensioni, cosa che ha consentito di raddoppiare la produzione. Le sedi di Rivignano Teore, il nuovo headquarter USA, USA a Baxter in Minnesota, impiegano 83 persone altamente specializzate. L'India, possibile bacino di tecnici e figure professionali altamente qualificate, difficili oggi da reperire in Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con un professore universitario e rappresentante diplomatico indiano in visita nella nostra regione. La Cina è vicina e l'India ancor di più, almeno per quel che riguarda l'industria metallurgica e la meccanica, che in Friuli Venezia Giulia pesano per ben il 40% del prodotto interno lordo. Confindustria Alto Adriatico da tempo denuncia una mancanza cronica di ingegneri e tecnici qualificati. Ne serviranno almeno 10.000 per i prossimi anni. Gli imprenditori guardano ad est e in particolare all'India, la più grande comunità digitale al mondo e il secondo produttore d'acciaio, così come del resto hanno già fatto agricoltori e allevatori della regione, dove sono già migliaia i lavoratori indiani. Anche l'India è interessata a stringere una collaborazione strutturale con l'Italia. Siamo appetibili anche per il livello dei nostri salari, come spiega il professore universitario Pratap Aditya Mishra e rappresentante diplomatico dell'Orissa, stato dell'India orientale con la più alta concentrazione di metalli del paese. Italy is definitely Molti studenti frequentano l'Italia e le università italiane. Certamente il focus particolare del Friuli Venezia Giulia, sappiamo che potremo affrontare anche l'aspetto economico in modo molto positivo. A questo proposito si è tenuta una tavola rotonda nella sede di Pordenone di Confindustria Alto Adriatico, proprio nell'ambito del progetto Indo-Italian Metal Hub. Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tre interventi a Terrazza Mare a Lignano Sabbiadoro per illustrare in un linguaggio accessibile a tutti tre aspetti del cambiamento operato dalla tecnologia digitale sul nostro vivere civile. Si parte alle 17 con Massimo Robbioni, docente di chirurgia maxillofacciale dell'Università di Udine. A seguire Manuel Caccitti, CEO di Karmasec. E infine Gianluca Foresti, docente di cyber security dell'Università di Udine. A moderare Francesco Zucconi, docente di geometria algebrica della stessa università, che ci ha anticipato gli aspetti che si affronteranno. Questi aspetti sono uno di tipo medico, che riguarda appunto la capacità, la possibilità di fare predizioni utilizzando le tecniche di realtà aumentata, di intelligenza artificiale, e quindi aprono la disciplina medica a forme di collaborazione, di ibridazione con discipline che un tempo si potevano pensare molto lontane. Il professor Robbioni infatti insisteva molto su questo aspetto della nuova vera interdisciplinarietà e mostrerà appunto applicazioni della sua disciplina, che è quella maxillofacciale. L'altro aspetto importante è la capacità di veramente poter fare delle previsioni circa la difesa delle nostre infrastrutture critiche, che sono la parte più delicata di una nazione, e dobbiamo non solo sapere difendere quando c'è l'attacco, ma saper prevenire da dove può venire l'attacco. E qui ci sono le nuove tecniche OSINT della Open Source Intelligence. Naturalmente anche lì si tratta di algoritmi, di possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale in un modo opportuno, dal dottor Manuel Caccitti, CEO di Karmasec. E poi la parte vera e propria di cyber security, che è affidata al professor Gianluca Foresti, uno degli esperti in regione, che appunto spiegherà come le tecniche di crittografia, anche con accenni a quelle nuove, a quelle più all'avanguardia, sono utilizzabili per proteggere i dati sia nella fase di memorizzazione che nella fase di trasmissione su infrastrutture di rete. Noi viviamo in un mondo dove, diciamo, la leggerezza, la rapidità, la molteplicità dei dati richiedono anche nuove forme di protezione e di autoconsapevolezza. Ed è questo lo scopo finale del nostro incontro. Noi ci siamo accorti, facendo un master specifico in Intelligence e Emerging Technologies, proprio come questi differenti punti di vista debbono stare insieme. Non si possono più muovere le pedine isolatamente. Una notizia: poco prima delle 6 di questa mattina una donna colta da improvvise doglie ha partorito in casa Monfalcone grazie all'assistenza telefonica della Soresc, nel frattempo aveva attivato anche ambulanza e automedica. L'infermiere della sala operativa ha guidato al telefono la figlia maggiore della coppia straniera, che non parla bene l'italiano, per assistere la madre nel parto. Non è stato così necessario attivare il servizio di traduzione, che comunque è messo a disposizione dal numero unico 112 sulle 24 ore. Mamma e neonata sono state poi accolte all'ospedale per i controlli del caso. È un gemellaggio di solidarietà quello che lega Trieste e la città ucraina di Mykolaiv. Pronti nuovi aiuti. Un'ambulanza e tre apparecchi per effettuare anestesie partiranno presto da Trieste in direzione dell'Ucraina per essere donate alla città di Mykolaiv. È una nuova tappa del progetto Trieste abbraccia Mykolaiv, che dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina ha visto l'invio di 4 spedizioni di aiuti dal capoluogo regionale verso la città gemellata. L'ultima, lo scorso Natale, conteneva giochi e dolciumi per i più piccoli di Mykolaiv. Ora, rispondendo alle richieste dei funzionari del comune ucraino, grazie alla collaborazione con l'azienda sanitaria Giuliano Isontini e il 118, è la volta delle apparecchiature mediche. Alberto Peratoner, responsabile struttura emergenze territoriali di Asugi. Asugi ha voluto dare un contributo a questo splendido progetto del comune di Trieste, dando una parte di beni che per questioni normative di utilizzo eccetera Asugi sarebbe destinata in qualche modo ad accantonare. E sono dei beni che possono essere molto utili e impattanti, di cui una è un'ambulanza che usiamo come riserva e degli apparecchi di anestesia per sala operatoria che sono stati recentemente cambiati in Asugi ma sono ancora perfettamente funzionanti. Il Comune di Trieste sta già organizzando il trasporto dei dispositivi attraverso l'ufficio logistico di Fernetti, che ha già operato le altre spedizioni. Gli apparecchi dovrebbero essere consegnati alle autorità di Mykolaiv o a Odessa, la città più vicina, oppure a Leopoli entro il mese di agosto. Serena Tonel, vice sindaca di Trieste. Trieste ha risposto immediatamente alle richieste di aiuto della popolazione ucraina appena scoppiato il conflitto e ora abbiamo avuto questa richiesta di mettere a disposizione un mezzo e delle apparecchiature per l'anestesia e ben volentieri ci siamo attivati con Asugi. Naturalmente continuerà la nostra disponibilità nel caso in cui si aprano ulteriori richieste e necessità da parte di Mykolaiv. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. E la Fondazione Luca Tota d'Angelo Crovatin annuncia l'apertura del bando per la prima edizione del premio Rotta Balcanica nell'ambito del 20° premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta e del 30° anniversario delle stragi di Mostar e Mogadiscio, un riconoscimento speciale riservato a giornalisti e fotoreporter che hanno raccontato la difficile tematica delle violenze e sopraffazioni cui sono sottoposti i migranti. Un'idea del nostro collega giornalista Ludovico Fontana, che qualche mese fa ha lasciato la sede RAI di Trieste alla Volta di Torino. L'iniziativa ha raccolto l'adesione dell'Ordine Nazionale e Regionale dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della sua articolazione regionale, delle associazioni Articolo 21 e Carta di Roma. E ora lo sport, c'è anche la triestina Lucrezia Cergol nella nazionale italiana di pallanuoto femminile che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Fukuoka. Il Sette Rosa ha battuto l'Australia per 16-14. Nella finale che valeva il terzo posto la Cergol non è stata schierata per il normale turnover all'interno della rosa, composta da 15 giocatrici delle quali solo 13 possono essere schierate. Il tecnico Silipo ha preferito avere a disposizione un controboa in attacco. Aveva invece giocato nei quarti contro gli Stati Uniti e in semifinale contro l'Olanda. Cergol, 22 anni, è la capitana della pallanuoto Trieste. Ed entrerà in vigore lunedì l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste che disciplina l'utilizzo dei SUP, gli stand-up paddle, per garantire sicurezza della navigazione, regolare svolgimento delle attività portuali e salvaguardia della vita umana in mare. Le tavole su cui si pagaia stando in piedi, prive di ogni segnalamento, sono sempre più diffuse. Da lunedì sarà vietato il loro utilizzo all'interno del porto e della rada di Trieste, negli approdi minori, di notte e in condizioni meteo non favorevoli. Sarà inoltre obbligatorio dotarsi dell'acciaio elastico, indossare il giubbino salvagente fuori dall'area riservata alla balneazione e tenersi a una distanza non inferiore ai 5 metri dai bagnanti. Per l'ottavo giorno di seguito coda ieri sera a Trieste per il film di Barbie campione di incassi. Solo in regione oltre 37.000 i biglietti staccati. A fare il tutto esaurito soprattutto le proiezioni in lingua originale, tra il pubblico persone che non andavano più al cinema da molti anni. Di rosa vestite per un evento che ha il sapore di una serata imperdibile, la proiezione al cinema del film di Barbie di Greta Gerwig. Successo planetario che sta riportando nelle sale quel pubblico ormai abituato, ben prima della pandemia, a consumare serie e film solo in streaming. L'ultima volta che sei stata al cinema prima di oggi? Ma penso un anno fa, più o meno. Credo nel 2007. Così tanto tempo fa! Giuro! È vero! 8 proiezioni al giorno in 2 sale al Cinema Nazionale di Viale 20 Settembre a Trieste. La proiezione in inglese fa sempre il tutto esaurito, così da una settimana. Code fuori dal cinema. Il titolare, Giorgio Maggiola, che gestisce sale da 67 anni, un successo così fatica a ricordarselo. Ricordo i tempi di Rambo 2, La Vendetta, La Storia Infinita, anni 80. Però è da molto tempo che non si vede tanto pubblico. Mai vista una cosa simile in piena estate, ammette Thomas Bertacche del Visionario di Udine, che ci dà i numeri del fenomeno: oltre 37.000 biglietti staccati nei principali cinema della regione in soli 7 giorni di proiezioni. Ma no, ero curiosa in realtà, ero su TikTok, era pieno, gente parlava di Barbie, ho detto vado a vedere anch'io, ho trascinato mia madre. Operazione marketing riuscita. Tutta la mia infanzia ho cresciuto con Barbie e mi piace tantissimo. Quanto ha studiato l'outfit? Da ieri sera, da ieri sera. Però la maglietta già l'aveva. No, l'ho comprata apposta, però sapevo dove andare. Non ha età questo film? Decisamente. Amata dalle bambine di tutto il mondo, poi boicottata da quelle bambine diventate ragazze un po' femministe, il film sembra voler riconciliare queste due visioni facendo molto spesso ridere, ma anche riflettere. Il messaggio che più le è rimasto? Chi vuole diventare un femminista, venga a vedere Barbie. Questo è il messaggio. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo il debutto a Tavagnaco entra nel vivo la mini tournée del Japan Brass Ensemble, formazione composta da 15 studenti giapponesi e 8 provenienti da tutta Italia per il progetto di Simularte Music System Italy. I concerti si terranno oggi nel Duomo di Venzone alle 20:45, domani alle 21 sotto la loggia del Lionello a Udine, domenica a Pordenone alle 18 al Parco San Valentino. Ernest Hemingway in friulano e la proposta della 25esima edizione degli incontri con l'autore e con il vino. Appuntamento alle 18:30 al Palapineta con la lettura scenica in friulano La Stilo di Hemingway, prodotta dal Teatri Stabil Furlane Arlef. La Pisi in Marileng nella traduzione di Stefano Montello prende voce con gli attori Massimo Somaglino, Fabiano Fantini e gli accompagnamenti alla chitarra di Leo Virgili. Alle 20:30 nella cantina Peters di San Martino al Tagliamento il giornalista e scrittore Beppe Severgnini conclude la prima edizione di Pordenone Legge in Cantina. Si parlerà dei neoitaliani, l'Italia eclettica e sorprendente uscita con grinta dal biennio pandemico, tema del saggio di Severgnini pubblicato da Rizzoli. Varcare la frontiera tra Pirano e Trieste, storie, memorie, squeri e navi. È il titolo dell'incontro in programma in Sala Milo a Muggia, in Piazza della Repubblica, alle 18. Il progetto è realizzato dall'associazione C01 con il Museo del Mare di Pirano, l'Università del Litorale di Capodistria, il Circolo dei Giuliani del Mondo di Bruxelles e la Comunità degli Italiani di Pirano. Organizzata dall'Ampi al Parco di Santo Svaldo di Udine, la lettura scenica del romanzo Il figlio della lupa e l'incontro con gli autori Anton Spacapan, Voncina e Francesco Tomada alle 18. E al termine dell'incontro, alle 20:45, la pastasciuta antifascista. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Bruno Montevecchi e Alex Ollan, in redazione ha collaborato Edoardo Veglia, dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.